il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi al quadrifoglio parliamo di un argomento insolito, il bramito del cervo, uno spettacolo della natura a cui si può assistere anche nel Veneto, in particolare nell'altipiano del Cansiglio, al confine tra le province di Treviso, Belluno e Pordenone. E può essere anche questa l'occasione, benché sia ormai passata l'estate, per conoscere una perla naturalistica che è appunto il Cansiglio con le sue foreste e anche i suoi musei. Ma oggi in primo luogo vogliamo sapere qualcosa di più sul bramito e sui cervi e abbiamo ospite Michele Bottazzo, tecnico faunista di Veneto Agricoltura. Buona giornata. Buongiorno. Ecco, il tema è proprio il bramito. Intanto partiamo da questo. Che cos'è il bramito di cui si sente tanto parlare? Ma il bramito non è altro che il periodo degli amori dei cervi, che appunto viene tra fine settembre e i primi di ottobre, quando praticamente i maschi generalmente sono solitari e si riuniscono alle femmine, quindi è un momento anche facile per vedere perché fanno attività, l'attività sono questi bramiti, sono questi suoni molto forti che si sentono nelle prime ore del mattino o meglio la sera. E quindi è il momento anche per noi per contattarli, per poterli vedere, che nel resto del periodo degli anni l'anno è molto difficile, stanno nel bosco. Ecco, stanno nel bosco, perché nel Cansiglio, il Cansiglio celebre per il suo bosco o foresta. Percorriamo un attimo brevemente la storia del Cansiglio, perché è così particolare? Dunque, il Cansiglio è particolare perché è un'area diciamo protetta e tutelata fin dalla Repubblica Serenissima. Era praticamente il bosco che forniva il legname per la flotta navale di Venezia, quindi era molto importante, quindi c'è stata una forma di tutela. Poi quando è passato allo Stato si è continuata questa forma di tutela, è stato territorio demaniale e tuttora è un'area protetta e tutelata. I boschi vengono utilizzati, però chiaramente tagli sono controllati. La fauna è protetta e quindi boschi rigogliosi e fauna protetta ha avuto questo riscoppio di tutta la componente faunistica, ma soprattutto in questi ultimi decenni del cervo, cioè è praticamente una delle più grosse popolazioni delle Alpi, possiamo dire che gravita proprio in questo nostro territorio. Ecco, questa è una risorsa, ma è anche un problema. Può essere anche un problema purtroppo, perché numeri molto elevati del cervo possono causare danni notevoli al sottobosco. È un erbivoro, mangia praticamente ovunque, può mangiare anche sottobosco, quindi anche la rinnovazione forestale. Poi se escono dai boschi e vanno nelle zone agricole, chiaramente anche l'impatto... Ecco, ma il cervo era un animale autoctono nelle zone? Era comunque un animale presente? Oppure è una presenza arrivata, magari introdotta di recente, e che quindi non nel suo habitat ha potuto svilupparsi così tanto? No, è una specie autoctona, solo che per secoli, come tutti gli altri ungulati, come il capriolo per esempio, è stato perseguitato dall'uomo in montagna. Poi dal secondo dopoguerra mondiale in poi c'è stato spopolamento della montagna, quindi tanti spazi delle Alpi, ma anche degli Appennini, si sono rimboschiti naturalmente, c'è meno pressione, quindi queste popolazioni hanno potuto crescere a dismisura. Ecco, questo... I freni naturali che sono i predatori come il lupo e l'orso invece sono più in ritardo e quindi non bloccano queste popolazioni, ecco perché abbiamo questi numeri così elevati un po' ovunque, ma in Cansiglio in particolar modo. Insomma. Vi sono altri animali particolari che è possibile anche avvistare se si viene nel Cansiglio? Beh sì, chiaramente il cervo è quello più eloquente, quello più grande, ma chiaramente ci sono anche popolazioni di caprioli, di tetraonidi, ogni tanto fa la comparsa anche il lupo, scusate l'orso, il lupo è nelle vicinanze, è tutta la fauna tipica delle Alpi insomma. Anche l'orso nel Cansiglio? Da una decina d'anni non è regolare assolutamente, però ogni tanto c'è qualche segnalazione, nel Bellunese c'è, ogni tanto transita anche in Cansiglio. Ecco, nel Cansiglio ci sono anche dei musei particolari, cioè c'erano delle costruzioni, delle malghe, altri che sono stati allestiti come musei, come per esempio il museo naturalistico. C'è tutto un percorso anche botanico che si può seguire. Sì, questo c'è, tutto il Cansiglio c'è una forte affluenza di persone, di turisti e altro, e quindi abbiamo cercato, insomma, la comunità locale hanno cercato di creare sia dei percorsi, sia attività di musei, c'è un giardino botanico, soprattutto nella buona stagione, sono particolarmente frequentate. Ecco, adesso torniamo al Bramito, ma prima ci fermiamo solo per qualche secondo, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del Bramito del Cervo. Noi stiamo approfondendo questo argomento con Michele Bottazzo, tecnico faunista di Veneto Agricoltura. Abbiamo iniziato parlando del Bramito, poi abbiamo parlato delle varie particolarità del Cansiglio. Torniamo al Bramito. Lei diceva che si può assistere a questo spettacolo soprattutto nella mattina presto o alla sera, e voi come Veneto Agricoltura o come guide comunque del Cansiglio offrite la possibilità di assistere a questo spettacolo, perché non è che si parte, si va e si guarda così. Lo spazio è aperto chiaramente a tutti, certo. Però negli ultimi anni stiamo cercando di favorire, diciamo, le visite guidate. Ci sono diverse associazioni, alcune le seguiamo noi, ma anche altre private fatte da dei tecnici naturalisti che conoscono bene la situazione e quindi possono portare clienti per piccoli gruppetti, sia possono parlare, chiaramente parlano un po' della biologia della specie, li portano per il bosco dove si possa assistere al bramito e, se si è fortunati, anche vedere qualche esemplare. Ecco, questo, il periodo è proprio questo, no? Fino a metà di ottobre? Periodo, adesso siamo proprio in periodo pieno, ecco, diciamo, dalla metà di settembre fino, diciamo, alla metà di ottobre è un periodo buono per poterli vedere, quindi adesso ci siamo in pieno. Ecco, come fare per venire e per contattare, appunto, chi organizza queste visite? C'è un sito internet? Sì, ci sono sia siti internet, oppure se si viene su un consiglio si può chiedere a qualsiasi esercizio presente, o i nostri uffici o i rifugi, sono tutti attrezzati e ci sono locandine sul posto, insomma, come dico, ce ne sono diverse di queste associazioni che fanno, e direi mediamente tutti bravi, anche ben preparati. A parte il bramito, il cervo, questo animale così maestoso che siamo abituati, appunto, a vedere, considerandolo quasi un po' il re della foresta, insomma, se il leone in Africa, forse nelle nostre Alpi il cervo è l'animale più spettacolare. Direi di sì. Quali particolarità ci sono che possiamo raccontare? Ma dunque, questo, come dicevamo, è il periodo clou e più importante per vederle. Poi per il resto dell'anno, soprattutto i maschi fanno una vita abbastanza solitaria, non è così facile vederli, mentre è più facile vedere femmine, specialmente in gruppi. Un altro buon periodo per poterli vedere è ad esempio la primavera. Da noi, siccome il Cansiglio d'inverno con la neve è particolarmente ostile, i cervi si spostano, vanno nelle zone più solatie limitrofe e poi rientrano in massa verso aprile-maggio, quando arriva il primo verde, chiamiamo noi, la prima erba, e quello è un altro buon momento perché si raggruppano nelle zone aperte, quindi si vedono anche gruppi di centinaia. E quando si avvistano, poi, che cosa bisogna fare? Stare fermi, nascondersi? No, abbiamo la fortuna che sono abbastanza confidenti perché sanno di essere un'area protetta, quindi si sta fermi, si guarda, no, non conviene avvicinarsi perché scappano. Se si ha la fortuna di imbattersi, conviene star fermi e godersi lo spettacolo. Ecco, basta. Quanti sono? Li avete contati? Avete un'idea di quanti siano? Questa è una domanda che spesso capita. È difficilissimo saperne il numero, perché non solo perché è molto difficile contattarli, ma anche perché hanno un areale estremamente vasto. Il Cansiglio, tra il nostro territorio e quello del Mitro Friuli, siamo quasi 6.000 ettari, mentre i cervi probabilmente ne hanno bisogno di un territorio di 20-30.000 ettari, anche di più. Noi nel 2010 abbiamo fatto un monitoraggio abbastanza intensivo su circa 8.000 ettari, ne abbiamo contati, stimati, perché sempre sono sempre stimati, oltre 3.100, che è un numero elevatissimo comunque. D'inverno si spostano tutti e non ce ne sono quasi più, ecco. Quindi è una popolazione molto fluttuante, va su e giù, ma è difficile dare un numero. Sicuramente abbiamo una popolazione molto, molto nutrita, questo sì. Questa è un'area protetta, quindi non sono cacciabili in quelle zone? No, non sono cacciabili, possono essere fatti degli interventi di controllo che sono diversi dalla caccia, cioè certo. Contengo il numero per salvaguardare l'ambiente, altre specie. Attualmente non viene fatto, ma fa parte di quegli strumenti consentiti per legge. E quindi quando andiamo nei ristoranti magari ti propongono carne di spezzatino, non so, di cervo, di qualche altro animale, provengono dall'estero, provengono da cacciatori di frodo, oppure ci sono comunque delle regolamentazioni che permettono anche questo? No, ci sono anche delle regolamentazioni, poco diffuse, ma ci sono. In altre delle regioni sono abbastanza diffuse. Gran parte di quello che troviamo noi in commercio viene dall'estero, dai paesi dell'est generalmente, dove ne hanno parecchi di più e l'animale, non dico elevato, ma quasi, ecco. Bene, io la ringrazio e allora ricapitolando, se qualcuno volesse entro la metà di ottobre assistere ancora nell'altopiano del Consiglio al bramito del cervo, può cercare su internet o contattare Veneto Agricoltura, certo, le guide della, o comunque le aziende di, turistiche, di promozione turistica della zona, e quindi informarsi, perché vi sono anche dei pacchetti, o comunque sarebbe importante andare legandosi a qualche guida che vi porta e vi evita di perdere tempo, vi porta in sicurezza nei luoghi dove è più facile avvistarli. Grazie. Grazie a voi. Rimaniamo in tema naturalistico con due brevi notizie. Il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e quello della Salute, ha inviato alla Commissione Europea le richieste di esclusione di tutto il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo. Le richieste sono state fatte in attuazione della nuova direttiva europea 412 del marzo di quest'anno, che consente agli Stati membri di vietare al proprio interno la coltivazione degli organismi geneticamente modificati. Sempre in tema di ambiente, si chiama Carta Crush Fagiolo, la prima carta per il packaging 100% riciclabile ottenuta dagli scarti di lavorazione dei fagioli. A realizzarla nell'ambito di un progetto etico che si chiama Save the Waste, metti da parte lo scarto, è l'azienda vicentina Pedon, leader italiano nel settore dei cereali e dei legumi, che abbiamo anche avuto nostra ospite in trasmissione un paio d'anni fa. La carta Crush Fagiolo nasce da una sinergia con altre due aziende vicentine, Favini e Luca Print, ed è certificata per il contatto diretto con gli alimenti. La sua produzione inizia con la selezione di sementi garantite no OGM e coltivate da migliaia di famiglie di agricoltori all'interno di programmi per lo sviluppo economico e agricolo nella Repubblica Federale di Etiopia. Il nuovo packaging già da quest'anno vestirà la lenticchia etica di Pedon, la quale azienda destinerà 15 centesimi per ogni confezione venduta alla campagna Everyone di Save the Children, una campagna per combattere la mortalità infantile e garantire assoluta assistenza a mamme e bambini in 38 paesi del mondo. Con questa notizia chiudiamo questa trasmissione, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.